È una di quelle serate che cambiano il segno e la direzione di marcia della storia. È capitato in certi momenti della storia americana e della storia occidentale, è capitato da un versante con John Kennedy, è capitato da un altro versante con Ronald Reagan. Ci sono dei momenti nei quali la storia gira pagina e questo è uno di quei momenti. Credo che poi con più serenità potremo riflettere, ma insomma intanto il primo dato è questo, l'America nel suo momento più duro, più difficile, nella condizione assolutamente drammatica nella quale si è trovata nel corso di questi mesi, ha scelto la via della speranza, del cambiamento, dell'innovazione, non la via della paura e della chiusura in se stessi. Qualcosa di molto importante, Certo. la scelta di un uomo di 46 anni, di un afroamericano, di un senatore giovane anche come esperienza parlamentare, è la voglia di un grande paese come sono gli Stati Uniti di dare un segnale al mondo intero di ritorno sulla scena mondiale con politiche, idee e linguaggi nuovi. È impressionante il successo che c'è stato al Senato. Credo che arriveranno vicini ai 60 seggi o giù di lì, insomma, si tratta di un'affermazione che non ha molti precedenti in queste dimensioni nella storia recente. Barack Obama, una delle prime cose che ha detto, e secondo me una delle ragioni del suo successo, è anche nel fatto di essersi presentato come il presidente di tutti gli americani, anche di quelli che non l'avrebbero votato. E sai che è un linguaggio che a me sta a cuore, disse: l'America non è divisa in rosso e blu come è diviso nelle cartine di stasera, l'America è fatta di cittadini che sono cittadini americani e che tutti bisogna rispettare e unire. Quindi sono sicuro che per la sua cultura politica, per il suo linguaggio e per le cose nelle quali crede sarà portato a unire il suo paese. L'Italia ha storicamente un rapporto di amicizia nei confronti degli Stati Uniti e questo rapporto è un rapporto che prescinde in qualche misura da chi è presidente. Certo è che Barack Obama sfiderà, credo, l'Italia e l'Europa soprattutto ad avere un ruolo più attivo, a svolgere sul piano delle relazioni internazionali una funzione protagonistica molto maggiore di quanto abbia svolto nel passato. Credo che tutti quanti ricordiamo che cosa fu, per esempio, il rapporto tra la presidenza di Clinton e la funzione europea e italiana in particolare nei Balcani. L'America che smette di essere un paese che crede di essere il gendarme del mondo, ma che torna a esercitare una leadership morale fatta di soft power più che di hard power, avrà bisogno e cercherà rapporti politici, coinvolgimento e responsabilizzazione, ma è una sfida che io penso sia bene accettare.